24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Questa manovra è una manovra che non esiste, semplicemente è fatta di buone intenzioni, direbbe qualcuno di un coitus interruptus, perché proprio non c'è quel quid che porta a un rilancio. Avete sentito, per Di Pietro, cos'è questa manovra? Un coitus interruptus, mamma mia ragazzi, alle 6:35 minuti. Buongiorno cari italiani, questo è 24 mattino, voglio salutare in redazione come sempre Miriam Lucchetti, voglio salutare l'alpino Peter Bescapè in regia e subito apriamo il Parlamento che come sempre si inizia sempre un po' più tardi, sempre un po' più tardi, sempre un po' più tardi. Sempre un po' più tardi. Voglio salutare subito con una domanda Lia Celi, che buongiorno Lia. Buongiorno, buongiorno. Quanto guadagni? Quanto guadagni? Quanto guadagni? Quanto guadagni? Quanto guadagni? Quanto guadagni? Quanto guadagni? Vabbè, sì. Meno di Fazio e di Brunetta sicuramente, diciamo che è così per tirarmi su, penso queste meravigliose buste paga e sono contenta. No. Diciamo che potrei sfidare Brunetta a un confronto pubblico senza dover mentire. Ah, ecco, saluto e ti presento, cara Lia, Maurizio Tortorella, che è il vice direttore di Panorama. Buongiorno Maurizio, ben ritrovato. Ciao Alessandro, ciao Lia. Eccoci qua, allora che dire, si stanno scoprendo le questioni nascoste della manovra. Allora, gli italiani arriveranno 14 euro in più in busta paga, 14 euro in più. Cosa ci faresti tu, cara Lia, con 14 euro al mese in più? Cosa... Ma guarda, con quattro figli 14 euro, diciamo, io faccio la spendita e aumento la loro paghetta. 3 euro a testa. Nella loro, perché, anzi no, forse se lo divido per 4 e la metto nella loro paghetta, loro lo sciopero lo fanno. Si vedono molto più presi in giro di quanto penso che diventano presi in giro. Sono 3 euro a testa e ne avanzano anche 2. Tu Maurizio potresti scialacquare con 14 euro, c'hai un figlio. Lasciamo perdere. Però ho una domanda per il tuo Peter Bescapè. Sì. L'alpino. L'alpino. Ma la tagli e tira è una tassa che gli piace a lui? Sai che è il motto degli alpini, no? Tagli e tira, tacci e tira. No, ma effettivamente anche questa non è male. Peter fa, vero, giusto, bravo Tortorella, bella questa. Vabbè, comunque, 14 euro in più, poi sì, arriverà questa... Tasi che non si sa se costerà più dell'IMU. Da domani aumentano le sigarette qua 40 centesimi al pacchetto, non lo so, tu lì a fumi, ti interessa? Era meraviglioso, era un po' che, ma peraltro mi sembra veramente di fare questo balzo dietro nel tempo, perché l'aumento della benzina e delle sigarette era proprio questa vecchia tradizione. Dico, ma quanto ci mettono? Sì. Io fortunatamente ho smesso di fumare, ma... Sì. No, ma sono. È bello, sono queste cose che ti fanno che pensare. Che torno. Il tempo non passi mai. No, ma infatti Maurizio dice una vecchia tradizione democristiana, ma perché non ti sei accorto che c'è la Democrazia Cristiana che è tornata? No, infatti. Sono accorto per quello che dicevo. Siamo tornati ai bei vecchi tempi passati. È chiaro, io l'ho detto da mesi qua, moriremo tutti democristiani. No, tu lo sai che io non ci credo, perché i democristiani non muoiono mai, appunto. Non si può morire democristiani. Noi sì. Poi invece spunta a rischio stangata sulle accise, titolo del Sole 24 Ore, oggi a pagina 3, cioè ha detto Letta, niente nuove tasse, e infatti queste sono imposte, sono le accise. Ci ha fregato così, spunta la stangata sulle accise. E poi questa è bellissima. Allora, se lo Stato ha messo una clausola di salvaguardia nella legge di stabilità, se lo Stato non taglia la spesa pubblica, dall'anno prossimo ci diminuiscono le detrazioni fiscali dell'IRPEF, non so, dal 19% si passa al 18%, poi al 17% sulle spese sanitarie, veterinarie, tutte queste cose qui. Cioè, tradotto, se lor signori non riescono a tagliare, tagliano a noi. perché qualcuno deve fare pure un sacrificio, no? Cara Lia, qua sì, non ma io immagino che a questa minaccia veramente tutta l'amministrazione pubblica si autotasserà, si taglierà lo stipendio, sì. Non così di non ripercuotersi su di noi, certo. Mettono la mano sul portafoglio, sulla coscienza, e da soli, spontaneamente, in un atto di generosità, si decurteranno tutto. Sì, me li vedo già negli uffici amministrativi, no, Maurizio, già gli statali, che anche loro sono stati ben tartassati, pare, in questa legge di stabilità. Insomma, no, ma questo per dire che allora, caro Maurizio, che si deve fare? Partirà il solito assalto alla diligenza, quello che si vuol dire, cioè in Parlamento adesso tutti vorranno modificare questa manovra, pare un po' di sì. Sì, anche se rispetto alle vecchie finanziarie ci sono limiti di intervento un pochino più severi con la legge di stabilità, almeno nelle regole iniziali. Poi, per carità, il Parlamento italiano è abilissimo nel trasformare le norme in maniera enorme, per l'appunto, quindi non sì, infatti non oggi c'è il buon Cirino Pomicino, viene intervistato, visto, perché viene intervistato al Quotidiano Nazionale, dire: quello che voi chiamate assalto alla diligenza è l'essenza della democrazia. E gli chiedono: ma lei infatti era un maestro dell'assalto alla diligenza? E lui: modestamente sì. È grandissimo Cirino Pomicino. Vedi, cara Lia, che tutto torna. Tu pensavi... È come intervistare Jesse James sulle rapine nelle banche. Insomma, dire che la rapina delle banche in realtà era un atto di civismo, insomma, chiamiamolo col suo nome. Tutto torna. Vabbè, questa insomma la legge di stabilità. Oh, devo dire questa cosa che trovate su Libero, per carità, adesso Mimi... si scateneranno già i grillini. Sapete che ci sarebbe un nuovo caso Josefa Idem, ricordate, no? La questione dell'IMU, della casetta in Canada, in provincia lì, che passava come seconda casa invece che come prima casa, invece era una seconda casa. Anche la moglie di Grillo, là lì. Secondo Libero, la moglie di Beppe Grillo fa passare per seconda casa la seconda casa come abitazione principale, così è esente dall'IMU ed evita di pagare oltre 10.000 euro di tasse sugli immobili. Io la leggo nella rassegna stampa, non lo so se è così, la moglie di Grillo furbetta dell'IMU, questo è il titolo di Libero. Aiutatemi, Lia, aiutami, di qualunque cosa aiutami. No, ma comunque, guarda, questi casi, io veramente rimpiango e mi commuovo pensando a quando c'era questo caso, il caso Idem, il governo era agli inizi, sembrava così, era tutto partito così bene, e poi c'è stata questa orrenda figuraccia che lo ha azzoppato. Insomma, diciamo che l'inizio è stato veramente molto molto incoraggiante, sì, doveva farsi immaginare dove saremmo andati a finire. Che doveva fare? Questo è tutto. La moglie è tutto... di Grillo, la moglie di Cesare, direi che insomma, anche della moglie di Cesare non si sarebbe dovuto dire niente, la moglie di Grillo bisognerebbe dire ancora meno. Sì. E invece eccolo qua, caro Maurizio, è il tuo momento, dai, puoi dire ciò che vuoi su Grillo, Grillini, Movimento 5 Stelle, scatenati. No, all'epoca Cesare divorziò dalla moglie diceva qualcosa. Cosa farà Grillo se fosse tutto vero? Che farà? Querelerà subito, immagino. Ma non so cosa farà Grillo. Io, la norma è sempre quella, se sei attento e puratore, perché troverai qualcuno più puro di te che ti è pura. È un vecchio detto, certo. Ma è assolutamente saggio e assolutamente giusto. Ho capito, ma tu che pensi? Cioè, dovesse essere vera questa cosa, che succederà? Niente, cioè la moglie di Grillo, chi sa. Per me dovrebbe dimettersi come minimo. Ma dimettersi da che? Non è nulla. Da capo di se stesso. Tra l'altro ci sono molti malumori e mal di pancia. Sì, è vero. Ieri si sono rifiutati di raggiungere i grillini, gli esponenti parlamentari, sono rifiutati di raggiungere lui e Casaleggio in un agriturismo, credo, dovevano incontrarsi. Sì. O ci vediamo in Parlamento oppure niente. Sono tutti movimenti da seguire, interessanti in qualche maniera, per chi come me non è che ami proprio il movimento. Eh, eccolo lì, è lì che volevo farti arrivare. Comunque, insomma, questa notizia la do, qua, la moglie di Grillo, furbetta dell'IMU, così titola Libero, staremo a vedere che succede. Allora, io andrei a sentire le informazioni sul traffico, siamo con Maurizio Tortorella, siamo con Lia Celi, poi rientriamo. Ah, Maurizio, non te l'ho detto, Lia Celi ha fatto il liceo con Nicole Minetti, questa è la notizia. Ci faremo raccontare qualche esperienza. No, però non credo nella stessa classe, no. Purtroppo, ahimè, non nello stesso anno, però diciamo che il banco dove sedeva è diventato una specie di monumento. Esiste ancora il banco dove sedeva? Cioè. Certo, non è mica passato poi molto tempo da quando frequentava il liceo. Il bidello indica i visitatori con un'aria concursa in questo banco. Mi stai prendendo... Le ragazze ci si siedono con buon augurio per una brillante carriera. Non è vero, dai, questa è una balla colossale, non ci credo, perché tu dici sempre queste cose, dimmi che è vero. Dimmi... Non paga l'IMU, può succedere veramente di tutto. Dimmi che è vero, io voglio andare a vedere il banco di Nicole Minetti col bidello che mi fa fare il giro della... Penso che sia pronta già una targa da attaccare sopra. Su dove? Sul banco o sulla sedia la targa? Perché è importante. Non ho ancora deciso. È importante saperlo. L'istituto non ha ancora deciso dove apporre la targa. Va bene. 24 mattino. Ciao Ale, mi volevo rivolgere a Iva Zannicchi, che ha dichiarato: se Berlusconi andrà a pulire cessi, a posto di lui pulirà lei. Cara Iva, quando vai in giro da sola, guardati bene che ti potrebbe arrivare un sputo in faccia, come sei cascata in basso. Sto vedendo in televisione un servizio che Pirche andava in giro con la scorta pagata dallo Stato italiano. Ma mi spieghi come cazzo è possibile questa situazione? Io mi sono stufata, basta, perché arriverà il momento che manderemo la nave da crociera per prendere i migranti, mentre i figli nostri se ne devono andare all'estero per trovare uno straccio di stipendio degno di tutto il tempo che hanno passato sui libri. Ben venga le Poste Italiane nel CDA dell'Alitalia, così invece di mandare in cassa integrazione le hostess e i steward, li mandasse agli uffici postali. Brunetta, ti interessa sapere quanto guadagno io? Beh, guadagno 800 euro al mese per 9 mesi l'anno. Gli altri 3 mesi non guadagno un piffero. Ma forse dei voracci non ti interessa niente. Ciao Brunè. Caro Milan, sempre e solo forza Inter. Ma perché si guarda solo la Rai, i compensi, eccetera, quando in questo paese fa schifo tutto? Il privato quanto il pubblico. Ma scusate, ma non ci ricordiamo i manager che hanno distrutto banche, società e hanno fregato delle liquidazioni faraoniche? Ma qual era? Questo è tutto un carrozzone di merdosi. Vabbè, questo è il parere dei nostri ascoltatori nella segreteria telefonica. Siamo con Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, e con Lia Celi, giornalista, autrice, satirica su carta, rete, TV. La troviamo un po' ovunque, insomma, esonda, deborda. Dove? No. Ha quattro figli, sì. Maurizio non è entrato, non è uscito dal primo secondo che fa sul fatto che tu abbia quattro figli. Continua. Perché una voce giovanissima, quindi sono turbato oltre che ammirato. Una donna coraggiosa da tutti i punti di vista. Sì, non esce vivo. Maurizio è lì che si aggira per la casa, quattro figli. No, però io così, siccome sono abituata e sono felicissima di incrociare Tortorella al Parlamento, però sì. Un po' mi manca il mio solito compagno Adinolfi, che a questo punto introduce. Lasciamolo stare. Il grido di guerra di Adinolfi lo recupereremo quando Adinolfi ci sarà, che già mi ha causato casini col pubblico, santissimo pubblico. Hai gente allegra con quel telefono. Sì. Conferma che non è assente per questi motivi, per censura sul suo grido di guerra, perché il pubblico potrebbe preoccuparsi. Infatti. Allora, io vorrei chiedere, lo so, io continuo a dire non ne posso più di questa vicenda di Harry Pripke, però siccome anche voi di Panorama, caro Maurizio, fate un ritratto, insomma, perché questa vicenda davvero all'italiana è esplosa in una maniera incredibile. Tra l'altro, finché era vivo c'erano delle polemiche, ma mica tanto. Adesso che è morto... Da cosa pazzesca è che girava abbastanza tranquillo, tranquillamente per Roma con la scorta, con la scorta, è una cosa veramente sì, adesso lì dice gira anche adesso, è così, è graffiante, ma è graffiante, gira più di prima, direi che si muove, si muove più di prima, effettivamente. Adesso diranno che è ancora vivo, no, sì sì, esatto, che io infatti l'ho detto, ditemi solo quando risorge, se risorge no, informatemi, se no basta questa cosa, no, no, ma guarda che è probabile, perché anche anche così i microorganismi della putrefazione hanno detto no, non è affar nostro, pensateci voi, decomporrete lì, che tutti si stanno così dissociando, diciamo, stanno facendo un passo indietro, ma se ne vuole occupare comunque. Maurizio, cioè voi cosa scrivete in questo ritratto che fate di Priebke? Siamo andati, intanto il titolo è interessante, il ritratto di boia in un interno, perché abbiamo ricostruito la sua vita negli ultimi anni, le sue manie, le passioni, quel che faceva e quel che non faceva, lo stupore per le notizie di cronaca e di cronaca nera in particolare, le lettere che scriveva in un carteggio riservato a Indro Montanelli, ne abbiamo una che è piuttosto interessante, in cui gli viene condannato, scrive a Indro Montanelli per chiedergli aiuto, è un ritratto, devo dire, sì, datata, vedo qua datata a 98, nel 98, la lettera del 98, del 98. Dicembre 98, esattamente. Sì. Sì, è un ritratto diverso, però voglio dire, questa vicenda adesso non si sa neanche dove sia, è partito da Pratica di Mare, la salma, destinazione sconosciuta, cioè come è possibile che sia degenerata negli ultimi tre giorni dopo la morte, ovviamente, quando in vita non faceva così tanto scalpore e rumore? Sicuramente un ruolo l'hanno avuto i mass media, che hanno appunto esasperato la situazione, poi la strumentalizzazione c'è sempre, per carità, la strumentalizzazione da parte di chi vuole trasformare un qualunque fatto in vicenda politica. Poi ci sono state coincidenze temporali, per esempio con l'anniversario del rastrellamento del ghetto, sì, di Roma, ieri, sicuramente, ieri, che ha in qualche maniera contribuito. C'è in atto si parla in Parlamento della legge sul negazionismo, che permette, sì, dal punto sì, di vista di un liberale, no, ma è chiaro, ma tutte, cioè, tutte ci queste sono, cose, per carità, alcune cose hanno portato a questa situazione. Io però ho una soluzione per la salma di Priebke. Eccola là, io volevo proprio chiedere a Lia, per concludere, cosa faresti alla salma? Temo già la risposta, ma dimmi. La manderei al deposito bagagli di Malpensa. Sparisce, non la si trova più. Ti ricordi quelle urme che erano sparite anni fa e che poi non sono mai più ricomparse? Vabbè, guarda, sorrido ma non dovrei. Fermiamoci qui, per carità. Ringrazio Lia Celi e ringrazio Maurizio Tortorella, la copertina di Panorama è Giù le mani dalla mia pensione, un altro tema caro, altro che legge di stabilità, è legato anche a questo, la pensione degli italiani, e anche questo è un bel problema. Mi scrive un ascoltatore, dice: domani vado a donare il sangue e per questo, grazie alla legge Fornero, dovrò recuperare questo giorno di lavoro. Ecco, questo, anche questo è uno spaccato d'Italia. Il giornale radio, rientriamo con la rassegna stampa. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci, le 7:21 minuti, siamo pronti a leggere i giornali, come avete sentito, cari ascoltatori, e vi ricordo che oggi parleremo di che cosa? Beh, pagare le tasse è un dovere e si sa. Ma sapete che ci sono comuni ovunque in Italia che offrono incentivi ai cittadini che pagano le tasse? Una cosa che sembra da pazzi, eppure a Napoli si offre lo sconto RC Auto sull'assicurazione per chi paga la tassa sui rifiuti. A Crotone davano dei premi buoni da spendere nei negozi a chi portava 100 scontrini in comune. A Ercolano il sindaco non fa pagare le tasse ai commercianti che denunciano il pizzo. Ma vi sembrano comportamenti giusti, incentivanti, oppure, insomma, perché premiare una cosa che uno dovrebbe fare già di per sé in quanto cittadino di uno Stato? Ne parliamo alle 8:15 con diversi ospiti, ora i giornali. È giovedì 17 ottobre ed eccoli qui i titoli. Il Sole 24 Ore ha un'ampia sezione dedicata alla legge di stabilità. Il titolo è Buste paga e casa.

presso la Prisma, un'azienda che fattura 14 milioni con le porte automatiche per ascensori e ha un contratto a progetto. Non voglio sentire i nomi degli ex Parmalat, non ce n'è stato uno, dico uno, che non abbia cercato di scaricarmi addosso le proprie colpe. Stavolta parla con la stampa. E così i figli di Tanzi, Stefano lavora in una ditta di ceramiche, Francesca si occupa di un'agenzia di viaggi. Insomma, è interessante la pagina del Corriere. Ma siamo velocemente in conclusione al premio La Carta Costa, articolo più inutile scovato sui giornali di oggi. Vince La Stampa con Anna Zafesova. Due pagine, non una, ma due pagine sulla Russia che diventa la nuova America dei melodici italiani, con interviste ad Albano, interviste a Pupo. Pupo che dice: i russi mi hanno permesso di sopravvivere quando la mia carriera di cantante era ferma e quella di conduttore televisivo non era ancora decollata. Due pagine per il concerto oggi e domani a Mosca per i 70 anni di Albano Carrisi. Evviva, evviva i 70 anni di Albano, evviva, evviva, cari amici della stampa, che la carta costa. 24 mattino. Siamo qui alle 8:20 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, pagare le tasse è un dovere sacrosanto, indiscutibile, lo sappiamo. Purtroppo sappiamo anche che l'evasione fiscale in Italia è uno di quei vezzi o vizi abbastanza diffusi. Però pensate che ci sono dei comuni, delle amministrazioni che premiano a vario titolo, in vario modo, le persone che pagano le tasse. Per esempio, a Napoli paghi la tassa sui rifiuti? Hai diritto a uno sconto sull'RC auto del 20%. A Crotone hanno fatto questa iniziativa che ripeteranno: porta 100 scontrini al comune e noi ti diamo un buono da spendere in qualche negozio. A Ercolano invece fanno una vicenda più complicata, anche perché riguarda la lotta alla criminalità organizzata. Fanno un'altra iniziativa, ne saluto il sindaco di Ercolano, Vincenzo Strazzullo. Buongiorno, sindaco, e tra poco spiegheremo di che si tratta. Comunque io poi racconteremo più avanti anche le storie di Crotone e Napoli. È da giorni che mi chiedo: ma premiare un qualcosa, un comportamento che non so se definirei virtuoso, perché dovrebbe essere normale pagare le tasse, allora premiare questo comportamento è davvero una cosa giusta, educativa, oppure no? Lo voglio chiedere anche ai nostri ascoltatori, 800 24 00 24, lo voglio chiedere anche e lo vorremmo chiedere a Bruno Tinti. Buongiorno, ex magistrato e spesso nostro ospite, ben ritrovato Tinti. Buongiorno dottor Miranda. Il nostro, insomma, attento come dire, se dico censore di comportamenti non virtuosi, va bene? Va bene, Bruno Tinti? Così. Va bene. Allora, a Ercolano invece la vicenda è ben più complicata, perché, ripeto, sindaco si intreccia con la lotta sacrosanta alla criminalità organizzata. Io la sintetizzo così: ai commercianti che, devo dire anche coraggiosamente, perché non è facile, denunciano il racket, denunciano il pizzo e hanno portato a condanne con le loro testimonianze i boss della Camorra, voi cosa fate? Scontate le tasse, non fate pagare le tasse, caro sindaco. Sì, è così. Noi diamo un'esenzione ai tributi locali di 3 anni. Tre anni di esenzione ai tributi locali. Sì. Ma intanto potete farlo o dovete metterli voi come comune questi? No, proprio. Noi abbiamo nel regolamento generale delle entrate comunali nel 2009. Abbiamo deliberato nelle agevolazioni tributarie questa esenzione per 3 anni. È chiaro che questo tipo di esenzione vale solo per i tributi comunali e non può valere per quelli, beh, chiaro, statali. Per quelli statali non potete avere competenza voi. Credo che questo sia un grosso atto di solidarietà verso le imprese e i commercianti, insomma, e questo fatto a titolo di tutta la cittadinanza, insomma, per il coraggio che si ha, insomma, denunciare un fenomeno così diffuso, non solo ad Ercolano, nel passato direi, perché oggi mi vanto di dire che Ercolano è una città deracchettizzata grazie al coraggio. Infatti c'è scritto questo, città deracchettizzata, proprio perché molte denunce hanno portato a condanne. Hanno portato a condanne esemplari, pensi l'ultimo processo che c'è stato ha portato oltre 200 anni di carcere. Però le chiedo, caro sindaco, in maniera molto... Io mi interrogo da giorni, devo dire che istintivamente quando ho letto anche la notizia qualche giorno fa ho detto ma no, ma non è un comportamento, non è che si fa così, cioè premiare un qualcosa che uno dovrebbe fare per legge, anche so che, ripeto, questa è un po' forte, più difficile, anche denunciare il racket senza pensarci due volte. Non è diseducativo il vostro insegnamento? Non credo, anzi sono convinto che questo dovrebbe entrare un po' nel regolamento di tutti i comuni della provincia di Napoli o in tutte quelle aree dove è forte il fenomeno non solo del racket ma anche quello dell'usura, perché io voglio ricordare che noi nel 2010 abbiamo approvato anche un altro comma nel regolamento generale delle entrate che prevede anche per chi denuncia l'usura, insomma, possa valere lo stesso tipo di esenzione. Quanti sono i commercianti che per ora possono usufruire di queste detrazioni? Sono 25 aziende. 25 aziende. Stanno godendo di questo tipo di esenzione per 3 anni. Bruno Tinti, che ne pensa intanto come primo impatto? Poi ripeto, racconteremo anche con l'assessore di Napoli che ci aggiungerà, il sindaco di Crotone e anche altre storie. Questa si intreccia con la lotta alla criminalità organizzata, quindi è molto ancora più complicata. Ma guardi, mi pare una cosa bellissima, nel senso che si tratta di una iniziativa istituzionale che opera in un settore in cui troppo spesso lo Stato è latitante. Io parlavo certe cose un tempo fa con degli amici che erano in un paese della Calabria e mi raccontavano che lì c'è un santuario il cui parroco regolarmente presenzia ai giuramenti di fedeltà dei nuovi picciotti alle cosche mafiose, e lo sanno tutti. Naturalmente la cosa viene mascherata come pellegrinaggi, occasioni, e nessuno dice niente, lo sanno, lì ci sono carabinieri, polizia, cittadini, nessuno fa niente. Ora, in un panorama come questo, avere un sindaco in una zona calda che così emana un provvedimento del genere ha un valore culturale, sociale, politico immenso. Detto questo, quanto possa funzionare in concreto, perché mi chiedo quanto l'utilità di questi sgravi fiscali possa bilanciare la paura che quelli che pretendono il pizzo incutono. E questo sì, no. Questo sì. Questo io non lo so, però questo non toglie nessun valore, ma proprio nemmeno un pezzettino all'iniziativa. Quindi secondo lei un'iniziativa lodevole, anche se effettivamente, caro sindaco, uno può avere questo incentivo dal punto di vista fiscale, ma se lo Stato poi, che ne so, è assente dal punto di vista della protezione, dell'aiuto, del sostegno alle imprese che fanno questo, uno si chiede se davvero valga la pena uno sconto di 3 anni di detrazioni locali per fare questa iniziativa, per denunciare il racket. No, io dico che intanto la denuncia dei commercianti, che sono degli eroi sul nostro territorio e che hanno dato una svolta epocale alla nostra città, ripeto, la denuncia è il frutto di un lavoro che è stato fatto già dal 2006 con la costituzione dell'associazione anti-racket, che ha visto assieme l'amministrazione, le forze dell'ordine, i commercianti, i dirigenti scolastici, i parroci, imprenditori, giovani, tantissimi insomma, che si sono uniti con una stessa idea, guardando lo stesso orizzonte, che era quello di combattere con i mezzi e le armi che avevamo, insomma, questo fenomeno camorristico, e il racket rientrava in uno di questi fenomeni. Quindi diciamo che il lavoro che è stato fatto assieme, dove l'evento fondante è stata la fiducia, sì, tra queste parti ha portato poi i commercianti, insomma. E questo sì, però quindi c'è anche un sostegno, ripeto, è una cosa più strutturata, c'è anche effettivamente non solo la detrazione fiscale ma anche un sostegno da parte dello Stato, lei dice. Però Tinti, qui c'è da dire che il comportamento normale dovrebbe essere, capisco che è facile dirlo qui da uno studio radiofonico di Milano o comodi seduti a casa, il comportamento normale dovrebbe essere quello di un commerciante di avere la forza di denunciare un tentativo di estorsione, e quindi è qui che si inserisce l'idea del premiare chi lo fa con una detrazione fiscale che... Però guardi, io ci ho pensato parecchio su questa cosa quando poi ieri mi avevate contattato per intervenire, io credo che ci sia una spiegazione molto etica in questa cosa, che toglie valore, se mi permette, la sua critica. Qual è il problema principale dei cittadini italiani, no? È questo spiccato individualismo. Penso a me, alla mia famiglia, la collettività va dal diavolo. È da qui che deriva l'evasione fiscale, la furbizia generalizzata, il disinteresse per la corretta amministrazione, a meno che non riguardi se stessi, eccetera, eccetera. Quando però il cittadino si sente appoggiato dalle istituzioni, secondo me questa segna un'inversione di tendenza, ed è molto etico che le istituzioni e il cittadino operino, come dire, con un aiuto vicendevole. Io faccio il mio dovere, ma tu Stato mi tuteli, mi appoggi, mi aiuti. E in questo, secondo me, il valore dell'iniziativa di Ercolano. E, tra l'altro, ripetiamo tra poco, dopo la pubblicità, chissà se gli stessi pensieri le suscitano anche la vicenda di Napoli, dove paghi la tassa sui rifiuti e puoi ottenere uno sconto sul RC Auto, oppure a Crotone, dove porti 100 scontrini fiscali in comune, quindi fai vedere che tu lo scontrino lo chiedi e per questo hai dei buoni sconto nei negozi. Che ne pensate anche voi, cari ascoltatori? 800 24 00 24, riprendiamo tra pochi minuti. 24 mattino. Ed eccoci qua, allora, alle 8:36 minuti. Premiare i comportamenti virtuosi o quelli che dovrebbero essere comportamenti normali dei cittadini, tipo pagare le tasse. Dopo il caso di Ercolano, con noi c'è il sindaco Vincenzo Strazzullo, con noi c'è Bruno Tinti. Voglio salutare altri due ospiti, l'assessore al lavoro e attività produttive del comune di Napoli, Enrico Panini. Buongiorno, assessore. Buongiorno a lei. Così come saluto il sindaco di Crotone, Peppino Vallone. Sindaco, eccoci qua. Buongiorno. Ma allora iniziamo da lei. È vero che avete fatto e rifarete questa iniziativa? Uno porta un cittadino 100 scontrini e voi che fate? Era il periodo in cui l'evasione fiscale era al centro dell'attenzione del paese. Abbiamo pensato di fare una provocazione, una semplice provocazione inizialmente, proprio richiedere ai cittadini di spedire al comune, di consegnare al comune gli scontrini fiscali che richiedevano per i loro acquisti, piccoli e grandi che fossero, e ipotizzare alla fine premio per le 100 famiglie che avevano trasmesso più scontrini fiscali. Si è verificato, inizialmente sembrava fosse una semplice provocazione, naturalmente non sarebbe stata accolta assolutamente. Invece alla fine dalle associazioni, dalle organizzazioni di categoria, le associazioni di categoria, a numerosissimi cittadini hanno aderito simpaticamente. Perché vedevano la possibilità di uno sconto e quindi vedevano la possibilità di uno sconto e lo hanno, c'è stata una partecipazione molto molto concreta. Che ha meravigliato naturalmente anche noi, non immaginavamo assolutamente che ci fosse questo tipo di partecipazione. Però, però sindaco, uno lo scontrino dovrebbe chiederlo naturalmente. Non dovrebbe neanche chiederlo, dovrebbe essere dato, certo. Senza neanche chiederlo. Credo la meraviglia che ha destato è stata proprio la partecipazione, perché poi quando abbiamo fatto la consegna dell'attestato di cittadino DOC, per intenderci, con questo piccolo premio, con questo piccolo premio abbiamo verificato una partecipazione non solo dei vincitori, ma anche una partecipazione di altri che avevano concorso, che sapevano di non aver vinto, che volevano partecipare. Cioè c'è un crotonese DOC che ha vinto, è quello che ha portato più scontrini in pratica. Più scontrini, le prime 100 famiglie. E chi era il premio? Cioè cos'era il premio? Era un buono di 100 euro presso una serie di attività che avevamo definito, una serie di negozi che avevamo definito con le stesse attività. Devo dire che gli italiani, pur di avere 100 euro di sconto, si inventano tutto. Mi faccio sentire anche a Napoli, così poi Bruno Tinti può commentare. A Napoli invece, assessore, voi che fate? In pratica, chi paga la tassa sui rifiuti, adesso si chiamerà in un altro modo, vabbè, ma chi se ne frega, queste sono altre questioni, ha il diritto alla possibilità di avere uno sconto del 20% sull'RC Auto, è così? Esattamente, l'interessato compila online un format nel quale dichiara la propria intenzione di accendere Una polizza dà i propri dati, il sistema in modo quasi automatizzato, preciserò meglio il perché, quasi automatizzato, controlla la posizione dell'interessato, quindi il regolare pagamento della TARSU, dopodiché se ciò corrisponde a quanto dichiarato, autorizza la procedura per l'attivazione di una polizza con lo sconto del 20%. Le ho detto quasi automatizzato perché in realtà è ancora forte, diciamo così, la verifica fatta da dirigenti e funzionari, che sta producendo un qualche ritardo nell'esame delle pratiche che ci vengono sottoposte. A fine mese, con la completa automatizzazione di questa procedura di controllo fra banche dati, renderemo tutto più agevole e più disponibile. La domanda è la stessa, Panini, mi scusi, è vero che il problema forse delle RC auto e delle auto non assicurate è un problema che in tutta Italia c'è, credo anche a Napoli soprattutto, però si risolve così, voglio dire, cioè paga la TARSU, paga quella che è la tassa sui rifiuti e io ti do uno sconto sull'assicurazione? Guardi, le rispondo in due modi. A Napoli il problema dell'assicurazione auto è un problema. Se lei pensa che ci sono tariffe diversificatissime fra città e città, e assicurare un'auto a Napoli comporta un premio mediamente triplo rispetto al costo richiesto per altre città. Seconda questione, in un paese nel quale, e qui parlo del paese non Napoli, del paese Italia, spesso, diciamo così, non pagare le tasse, non richiedere lo scontrino fiscale, servirsi di un prodotto contraffatto non viene percepito come il mancato rispetto di una norma, ma quasi come un atto di rivalsa verso lo Stato o verso l'ingiustizia. Il premiare i comportamenti virtuosi, a mio avviso, significa sostenere anche con piccoli atti una correttezza nel rispetto delle norme che non sempre c'è. Una lotta di educazione civica. Bruno Tinti, qui ci sono altri due casi dopo quello di Ercolano che le sottopongo. Allora, che succede? A Crotone, ha visto, c'è stata quasi il sindaco Vallone, dice, una sorpresa nel vedere quanta gente si è presentata con lo scontrino. A Napoli il problema delle RC auto mancanti la risolvono anche così. Ma sa, io ho finito da poco di leggere un libro scritto da un professore di filosofia politica e morale dell'Università di Harvard, si chiama Michael Sandel, e lo consiglio a tutti, si chiama Giustizia e lo può leggere chiunque, non è assolutamente tecnico, complicato, e ti porta a delle considerazioni veramente sconcertanti. In ogni modo, la parte che volevo citare era questa: lui contrappone la filosofia utilitaristica a quella della legge morale originaria. In altri termini, i filosofi tipo Bentham o Stuart Mill, gli utilitaristi, addirittura Kant. E leggendolo si capisce che non ha nessun senso pensare che un essere umano si governi, come diceva Kant, perché ha la legge morale dentro di sé e il cielo stellato sopra di sé. L'essere umano ricerca la felicità, ricerca il massimo dell'utilità possibile e a livello della collettività il massimo dell'utilità possibile. È fregare. No, al contrario, consiste nel ricercare un'utilità che vada bene per tutti. È per questo che le iniziative di questi sindaci sono veramente meritorie, perché riescono a coniugare l'interesse del singolo individuo con un'utilità generale. E questo è molto etico. È molto etico, le dicevo. Mi faccio sentire qualche ascoltatore. Claudio da Brescia, buongiorno. Non c'è nessuno che critica qua. Buongiorno. Ma, Claudio, lei è dello stesso parere? Ma io sinceramente penso che il miglior riconoscimento per un cittadino che paga le tasse, il miglior premio, è quello di veder funzionare i servizi per i quali paga le tasse. E certo. E purtroppo in Italia non è così. Io le pago tutte, dalla più piccola alla più grande, fra l'altro ho le classiche trattenute in busta paga. Per sì, cui, sì, quindi. Però chiede sempre lo scontrino? Chiede sempre lo scontrino? Chiedo lo scontrino quando non me lo danno. Spero la fortuna certo. Che spesso. No, perché sa, magari a volte le dicono, vabbè, 10 euro, ma facciamo 8 senza scontrino. No, non sono queste le cifre che fanno la differenza, a parte che... Vabbè, non so, al ristorante una pizza, invece che 20 euro facciamo 18, No, no, lei dice no, no pago no, 20. Sinceramente, ecco, i valori e i principi valgono più di 2 euro risparmiati. E quindi che ne pensa di queste iniziative? Quindi ne penso che mi sembra un ulteriore, come dire, scappatoia a un sistema che invece non funziona. Cioè dire, io ti convinco a pagare le tasse con il premio, con i 100 scontrini che magari... Sì. Ti garantiscono uno sconto, però poi se l'immondizia si accumula sotto casa, io vengo da una realtà del sud dove purtroppo questo fenomeno è molto frequente, sì. Io pago la tassa dell'immondizia, poi però mi è trovo... Tutto. Cioè lei non vorrebbe, come dire, un premio al virtuoso, ma vorrebbe che pagando le tasse non ci fossero i servizi che funzionano, sì. Insomma, che è il motivo per cui si pagano le tasse. Ecco. Perfetto, è l'incentivo migliore. Grazie Claudio, mi faccia andare, che se no sono in ritardo ad andare, che la ringrazio Claudio da Brescia. Vorrei andare dalla provincia di Verona, Giuliano, e poi al traffico. Giuliano, buongiorno. Buongiorno. Che ne pensa? Ma io sono dell'idea, per carità, sono anche iniziative plausibili sotto certi aspetti, ma in realtà accrescono una cultura dell'amnistia e dell'indulto in generale. Cioè in Italia abbiamo queste situazioni dove viene certificato che c'è uno stato di guerra tra pubbliche amministrazioni e cittadini, e vengono premiati. Io sono d'accordo che sono persone virtuose perché sono sulla barricata, ma nel momento in cui si fa una scelta di premiarli in questa maniera, è come dire lo Stato non è in grado di provvedere, sì, alle sue incombenze e deve dare dei premi. E come l'amnistia e l'indulto sono dei premi a chi si trova in quella situazione in quel momento. Altre persone che non si trovano in quella situazione in quel momento non ne godono. Beh, è interessante questa domanda, Giuliano. Guardi, subito dopo il traffico, dal sindaco di Ercolano, dal sindaco di Crotone, dall'assessore di Napoli, questa domanda molto precisa avrà una risposta tra un attimo. Allora, eccoci qua. Vedete che in realtà le critiche arrivano ai nostri ascoltatori. Via SMS Fabrizio mi scrive: ma non ho parole, è come se io in auto girassi contromano e per incentivarmi a circolare correttamente come da codice mi si regalasse un'auto. Allora io vorrei quello che ha posto come problema Giuliano dalla provincia di Verona, cioè dire è una certificazione di fatto che lo Stato comunque non riesce a fare quello che si dovrebbe ottenere con mezzi normali. Oppure un'altra ascoltatore mi dice: ma perché tutto ciò in Danimarca non funziona, non lo so, non succede? Allora partiamo da Ercolano, Vincenzo Strazzullo, che risponde insomma alla domanda poi che è sempre quella di prima, cioè è un'ammissione di incapacità di ottenere cose che dovrebbero essere normali in altri metodi, quello che fate voi a Ercolano. Strazzullo: io non sono d'accordo, perché se far emergere certi fenomeni per me rappresenta un grosso attestato di solidarietà da parte di tutta la popolazione verso queste persone che, ripeto, hanno avuto il coraggio di far emergere un fenomeno. Ma la solidarietà certamente, ma l'esenzione fiscale è fiscale, le faccio un esempio: quello che risparmiano le imprese per quanto riguarda la TARES, e il costo di quel servizio viene distribuito a tutti i cittadini, con cui esentate una parte dei cittadini, quel costo viene redistribuito su tutto il resto dei cittadini, per cui credo che questo possa rappresentare un grosso attestato di solidarietà che tutta la città dà a queste persone che hanno avuto il coraggio mi faccia capire la tassa sui rifiuti che non pagano le imprese che denunciano il racket, era questo il concetto, viene pagata, cioè una quota in più se la collano tutti gli altri cittadini? Sono tutti gli altri cittadini che si fanno carico di questa esenzione. Io pensavo e speravo che fosse il comune a dire rinunciamo a una parte della, invece il totale fa sempre 100, diciamo, e se lo accorgo. Ma deve essere così, ma questo viene considerato come un atto di solidarietà nei confronti di chi fa questo. Verso persone che dovrebbero naturalmente, questo, ci sono tante cose che ognuno di noi dovrebbe naturalmente, normalmente... No, ma questa infatti è legata anche a una situazione di lotta alla criminalità organizzata, come l'ho detto è più complicata perché coinvolge anche i timori che una persona ha, non è facile, e l'ho detto più volte, lo ripeto, dire bisogna denunciare il racket qui seduto in un comodo studio radiofonico è più difficile se uno è un commerciante in trincea. Peppino Vallone, torno da lei, sindaco di Crotone, che ne pensa di questa cosa, insomma, che dice l'ascoltatore, ma insomma dobbiamo arrivare a questo per... In un paese normale non dovremmo arrivare a questo, è evidente. Non lo siamo noi. Ma nel momento in cui l'idea, ad esempio, ipotizzata qui a Crotone, è sorta nel momento in cui c'era un dibattito nazionale molto impegnato sull'evasione. E quindi era, diciamo, il tema, e credo che seppure non se ne parli molto ancora attualmente, è il tema. È vero, dovrebbero funzionare i servizi, se tutti i cittadini fossimo doc. Così non è. Il dato dell'evasione fiscale è un dato che è sotto gli occhi. Certo, però l'ascoltatore, anche l'ascoltatore di Brescia ci dice: caro sindaco, io pago le tasse, le pago fino all'ultimo, vorrei che mi funzionassero appunto tutti i servizi, rifiuti, eccetera. Funzionano tutti i servizi in quanto dovremmo essere tutti cittadini come il cittadino di Brescia, che paga tutti i servizi e quindi correttamente pretende che il servizio funzioni. Se la sacca di evasione aumenta di anno in anno, e non tanto molto spesso per la volontà di evadere, ma per le difficoltà complessive che vive il Paese, è evidente che questi principi cominciano ad avere dei limiti, dei forti limiti, perché le risorse per fornire un servizio civile stentano ad arrivare all'interno degli enti locali, parlando dei servizi minimali, dei servizi che forniscono i comuni, per cui quei servizi diventa difficile renderli effettivi. No, questo sì. Allora, i tentativi sono quelli usuali, attraverso anche forme che, ripeto, inizialmente a noi sembrava più una provocazione che una fatta. E invece si è rivelata una forma interessante. Una forma di partecipazione molto diffusa che non era prevista, ma io infatti ma è chiaro, vorrei chiedere anche all'assessore di Napoli Panini, voi vi siete posti per esempio nell'ottica di un cittadino di Napoli che paga la RC auto normalmente, paga la TARSU, paga tutto, e che si vede, come dire, ma perché io sono il più fesso che pago tutto, e quello invece magari incentivato da questa offerta dice: ah, toh, sai che c'è, allora la pago la tassa dei rifiuti perché così ho il 20% di sconto. Panini, cioè, ma significa che abbiamo fatto una bella scelta, nel senso che diamo una risposta a quel cittadino virtuoso che in tutti questi anni ha pagato la TARSU e deve contemporaneamente pagare la polizza assicurativa, e nello stesso tempo diamo un'opportunità a quel cittadino che in questi anni non ha pagato la TARSU e magari dice: guarda, il mio comportamento, che diventerà corretto, avrà un riconoscimento. Perché in questo caso noi, da un lato, ridistribuiamo utili, cioè nel senso che il comune incassa degli introiti con la TARSU e una parte la ridistribuisce sotto la forma di convenzioni che comportano un risparmio nella spesa delle persone. Sì. E poi guardi, io capisco tutte le obiezioni, per l'amor di Dio, ma siamo in un paese nel quale i tassi di evasione la cultura, diciamo, di che cos'è il rispetto della legge ha una tradizione di un certo tipo. Io penso che tutto ciò che in modo corretto e trasparente sollecita comportamenti corretti ci aiuti a recuperare tempo. No, cioè, è chiaro, il dibattito è una dimensione, io credo, utile. Ma è chiaro, io ho un dibattito molto, molto laico e molto aperto. Bruno Tinti, per concludere, qui mi chiedono di ripetere via SMS il titolo del libro che citava, poi magari lo metteremo. Com'è? Michael Sander, giusto? Michael Sander, sì, Sander. Scritto Sandel, si chiama Sandel. Giustizia giustizia, il nostro bene comune. Giustizia al nostro bene comune. Vabbè, sa che voglio chiudere con una provocazione. C'è uno che mi scrive: io lo scontrino non lo chiedo, così i soldi rimangono in Italia e non vanno nell'Europa. lo vede che vede, in realtà questa storia della legge morale dentro di me non funziona. è così. Va bene, dai, ci fermiamo. Ringrazio tutti, Bruno Tinti, ringrazio il sindaco di Ercolano Vincenzo Strazzullo, quello di Crotone Peppino Vallone e l'assessore di Napoli Enrico Panini, tutte riascoltabili su radio24.it. E che dire, ci trovate su Twitter, io sono Alino Milan e questo è il mio profilo, pure 24 mattino. Dalla redazione tutta, cioè Miriam Lucchetti, Alessandro Marco Tulli, Elisabetta Fusconi e il grande alpino Tira e Tasi, Peter Bescapè, un saluto, a domani 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.